chi ci ospita, con il sindaco Roberto Reggi che ci ha fatto il piacere e l'onore di essere qui con noi e che ci porta un indirizzo di saluto. Grazie. Benvenuti Piacenza, innanzitutto grazie per l'invito. Lasciatemi esprimere l'orgoglio della città per ospitare tutti voi. So che molti vengono da lontano, spero che abbiate il tempo di vedere un pochino la nostra bella città e di apprezzare tutte le cose belle che offre. Intanto io mi sento di ringraziare davvero con affetto l'Avis provinciale di Piacenza che è riuscita nell'impresa di portarvi qui tutti quanti. Fa un'azione di promozione per la città molto significativa, ma dimostra anche l'Avis provinciale di Piacenza col suo gruppo giovani di essere una realtà assolutamente importante nel panorama nazionale, se è riuscita a convincervi a venire qui. Io credo che vedervi tutti assieme è davvero un effetto strano, perché guardate, il volontariato sta vivendo un momento difficile, in tutto il paese, ed è difficile trovare giovani che si impegnano a fare qualcosa per gli altri. È difficile trovarlo nei confronti di persone che si conoscono. E sapere che tutti voi invece avete fatto la scelta di fare in maniera continuativa, determinata, la scelta di donare il vostro sangue a favore di qualcuno che nemmeno conoscete, beh, insomma, io vi assicuro che scalda il cuore, perché dà un'immagine di giovani che fanno ben sperare per il futuro. In particolare in un momento in cui pare che l'individualismo, l'egoismo sia il modello culturale di riferimento. Quindi sapere che tanti giovani come voi hanno invece fatto un'altra scelta, che tra l'altro presuppone anche uno stile di vita rigoroso, comunque attento, perché non tutti possono donare il sangue, ma solo chi si comporta e ha delle condizioni di vita di un certo tipo. Anche questo dimostra che c'è una disponibilità anche al sacrificio che non si trova facilmente. Quindi davvero grazie per quello che fate, grazie per la vostra generosità e spero che quello che voi state facendo sia anche un segnale raccolto da chi non è più giovane, perché purtroppo c'è una diminuzione da parte di volontari anche nell'età più avanzata. Quindi un messaggio che mandate, che penso e spero possa essere raccolto da tutti. Chiudo invitandovi ad essere anche attenti se vi approccerete ai piatti tipici piacentini, ma soprattutto ai vini locali. Cioè, è vero che fanno buon sangue, ma con moderazione. Grazie. Ringrazio il sindaco e do la parola per un breve saluto all'altra istituzione che ci vede protagonisti come donatori di sangue, ovvero sia il centro trasfusionale. Con l'intervento del dottor Agostino Rossi. Pochissime, brevissime parole, giusto per salutare tutti voi e ringraziarvi di essere qui, come ha fatto il sindaco, e per così per stimolare le vostre iniziative. In una società che cambia come la nostra così rapidamente, voi siete un patrimonio insostituibile, quindi io non posso che augurarvi buon lavoro, portarvi i saluti e i ringraziamenti della struttura che rappresento e dell'azienda sanitaria di Piacenza e invitarvi, come dicevo, a usare proficuamente le ore prossime. Grazie. Diciamo che interni, quindi da parte nostra che vedete di noi siamo qui al tavolo, chiedo a Giancarlo Stomboli di venire qui perché Giancarlo è responsabile. famiglia. Per i tempi poi. Il cane per piacere. Molto probabilmente vi chiederete perché di questa foto. È un semplice modo per salutarlo e rendere omaggio al nostro dirigente, che prima di essere una figura istituzionale era e rimane un nostro caro amico, Giampiero. Non ha mai mancato ad una nostra manifestazione di noi giovani e sicuramente se lui fosse ancora qui sarebbe presente in prima fila a tifare per noi. Qui chiudo ringraziando Giampiero di averci fatto crescere e di aver sempre creduto in noi. Esempi concreti che danno l'idea di chi possa oggi essere realmente definito eroe. Vi congratulo per il vostro apporto anche nel settore della cultura e della prevenzione sanitaria e della promozione di corretti stili di vita. Sono convinta che dando voce a chi opera per il bene della comunità, attivamente e silenziosamente, si riuscirà ad apprezzare e conoscere al meglio il nostro popolo e a dare il giusto peso a chi quotidianamente rende onore alla nostra nazione. Nel ringraziarvi nuovamente, auguro a tutti voi una serena prosecuzione dei lavori. Giorgia Meloni. Bene, l'esecutivo l'ho presentato, ovviamente il forum è stato, diciamo, il nostro biglietto da visita di prima presentazione appena eletti, e su cosa vogliamo fare poi sarete, come dire, coinvolti tutti voi, perché è vero che l'esecutivo ha dei compiti di coordinamento, ma poi i giovani dell'ARIS ovviamente siete voi. Vorremmo avere un ruolo da protagonisti anche in tutte le realtà di Avis Tour e quindi in primis alla nostra Assemblea Nazionale che si terrà in Abruzzo dal 21 al 23 maggio prossimo. Stiamo valutando insieme anche l'esecutivo e poi lo porteremo al Consiglio Nazionale una proposta di coinvolgimento dei giovani. Una prima idea poteva essere quella anche di raccolta di materiale multimediale, di video, di canzoni di cui i nostri giovani sono grandi autori e protagonisti. Mi viene da ringraziarli perché li ho visti qui prima, ne abbiamo due esempi presenti qua che sono i giovani dell'Avis di Manduria e quelli di Ascoli che hanno costituito dei video e che ringrazio perché con le loro voci, con la loro musica contribuiscono a portare avanti il messaggio di solidarietà dell'Avis. Poi voi sapete che dal mandato precedente il 2010 dovrebbe essere l'anno delle Avisiadi e cioè le Olimpiadi dell'Avis, lo dico per chi non ne conoscesse l'esistenza, e peraltro le Avisiadi l'ultima volta, sono state fatte 4 anni fa proprio qui in Emilia Romagna, Sportilia, sono state vinte dall'Abruzzo e quindi comunque ci sembra anche doveroso andare in Abruzzo ad ospitare le Avisiadi, speriamo nel 2010. E poi ovviamente avremo tutte quelle occasioni di formazione da parte dei forum o delle consulte e aspettiamo appunto di avere come si sono proposti i ragazzi di Piacenza per ospitare questo forum, di avere anche delle vostre proposte per ospitare consulte, elementi di formazione e anche, diciamo, anche un pochino ludici, perché noi quello che ci contraddistingue è il fatto di fare volontariato col sorriso sulle labbra, ce lo siamo detto tante volte e vedere i vostri volti sorridenti qui davanti ne prova ancora una volta. Due parole logistiche, nella cartellina trovate sempre il foglio di iscrizione e i questionari, l'iscrizione c'è già una scatola lì fuori per poterla mettere e i questionari vi chiedo di ridarceli domani perché ci servono poi per capire come è andato questo forum, per aiutarci a rendicontare questa cosa che spesso ci dicono che i giovani fanno poco, noi vorremmo farlo in maniera puntuale. Finisco con i ringraziamenti doverosi ma non scontati, prima di tutto a tutti voi che siete qui, perché insomma senza di voi sarebbe tutto assolutamente inutile, e ai relatori e a tutti i facilitatori che ci aiuteranno nei lavori di gruppo, all'esecutivo presente e a quello passato che ci ha, come dire, supportato e ci ha anche fatto un bel passaggio di consegne, a tutti coloro che fanno parte dell'Avis Senior, perché guai a utilizzare altri aggettivi se no rischieremo di essere sfigati, e ovviamente ai nostri ospiti, quindi a tutta l'Avis di Piacenza, giovani, alla Presidente che è qui accanto a me, al Presidente regionale e al Presidente nazionale che viene qui ad essere arrivato. Lavoro. Ovviamente l'abbiamo detto, siamo 260, quindi i gruppi di lavoro sono gruppi. modo da poi rimettere insieme tutto il lavoro e arrivare domani ad avere una sorta, rimettendo insieme appunto i vari pezzi del puzzle, una sorta di vademecum su quali sono gli stili di vita più corretti per i giovani in generale e soprattutto per i giovani che vogliono donare il sangue. Mi taccio perché sono stata anche troppo lunga e lascio la parola al nostro Presidente nazionale. Sì, come ho già fatto notare sono arrivato tardi apposta, che così mi avete applaudito perché altrimenti non mi notavate. Siccome io poi sono relatore, sto qui con voi per i lavori di gruppo, io vi porto semplicemente un saluto rapido adesso perché abbiamo modo poi di stare insieme sia oggi pomeriggio che domani mattina, quindi non vi voglio annoiare adesso sulla disquisizione. Peraltro sono molto contento di aver vissuto in queste settimane la crescita esponenziale del numero di partecipanti, perché quando sentivo l'inizio di chi sta organizzando ha preoccupato ma arriverà abbastanza gente, chissà se ce la facciamo, dopo erano preoccupati al contrario, quanti sono, come organizziamo i lavori di gruppo e quant'altro. Personalmente sono molto contento di aver dovuto, come dire, impegnare i ragazzi organizzatori qui per fare in modo di trovare soluzioni adeguate, perché c'era una così grossa partecipazione che non vorrei trovarsi alla vuota e poi trovarsi in difficoltà. Io mi complimento con tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa, perché sono stati in contatto sia tramite Antonio, sia tramite Claudia, sia tramite tutti i responsabili di Piacenza, per mail, per telefono, Luigi Foschi e quant'altro, in queste settimane, proprio perché abbiamo creduto nella necessità di rincontrarci come politiche giovanili per dare un senso ulteriore all'attività che ABI sta svolgendo sul territorio. E evidentemente anche il tema scelto ha avuto la sua presa, perché la grossa partecipazione sicuramente c'è la voglia di stare insieme, di conoscerci, di condividere, ma dall'altro lato probabilmente c'è anche una particolare attenzione a questo argomento che tratteremo in questi due giorni. Come dicevo all'inizio, sono qua fino a domani all'ora di pranzo, quindi avremo modo di scambiarci idee, opinioni e quant'altro, in particolare con chi sta nel gruppo che coordinerò io, perché lì avremo anche dei gruppi. Mi diceva che sono da solo, quindi sono bravissimo, ti farò le domande, le risposte e anche le conclusioni, quindi sono a posto. Vabbè, quei due o tre che vorranno venire con me, diciamo così, avremo modo di approfondire gli temi, ma nelle conclusioni di domani sicuramente potremo poi riprendere gli argomenti trattati e sono a disposizione insieme anche agli altri componenti dell'esecutivo che sono qui per qualunque così dibattito, discussione, chiarimento che si voglia portare. Grazie e buon lavoro a tutti. Allora, mi dicono di tenere il microfono più vicino perché si sente meglio e lascio la parola a Rina Lato, vicepresidente vicario dell'Avis nazionale, nonché referente dell'area scuola e formazione, proprio quell'ottica di integrazione si diceva prima, tenere sempre i due percorsi senior e giovani sempre vicini. Grazie. Buonasera a tutti. Di solito mi si dice che non mi emoziono quasi mai. Invece davanti a questa bellissima platea non vi nascondo che sono veramente molto molto emozionata. Costituite la nuova linfa. Fate le cose con entusiasmo, ha detto prima Claudia, facciamo le cose sorridendo. Le fate sorridendo perché ci mettete passione. Allora questa passione che forse nel corso degli anni in qualche modo perdiamo perché siamo presi da mille altre cose, e dovete ritrasmettercela e siete qui per questo. Io vorrei per un attimo che ciascuno di voi fosse da questa parte, solo per un attimo, per vedere veramente questo spettacolo meraviglioso di nuova linfa. Siamo a parlare dei giovani proiettati sempre nel futuro, siete in presente. Investiamoci di responsabilità insieme a voi, di fare le cose insieme a voi, di riportare a casa un grosso bagaglio che io spero che da oggi a domani riuscirete a portare, ma già venite con un bagaglio che state trasmettendo a noi. Quindi è veramente un modo di crescere a doppio senso, doppio senso nel senso di marcia, semplicemente. È veramente uno spettacolo grandioso. Io approfitto, Di Maio, il vice minor Cesare, il presidente e nazionale ha detto le cose importanti, però approfitto di questo momento così di plenaria perché vorrei che riportaste a priori qualcosa, qualche comunicazione da utilizzare proprio nei vostri territori, perché so che c'è sempre nella nostra organizzazione, che è molto, molto grande, anche a volte si inceppa in certi percorsi. Voi invece siete i datori diretti perché venite dalle basi, venite dalle vostre comunali, dove è il nostro patrimonio, dove è la nostra ricchezza. Intanto mi preme ringraziare il sindaco per le belle parole che ha detto verso l'Avis, verso i giovani, verso tutti. Noi non siamo, come in qualche modo ci citano, degli eroi, siamo delle persone normalissime che abbiamo vantaggi a priori per il fatto di essere donatori, quindi non è che siamo particolarmente generosi e quindi degli eroi, no, siamo delle persone normalissime che forse a priori, prima di altri, abbiamo capito quali sono i vantaggi di essere donatori, quindi persone sane innanzitutto, e questo non è un nostro merito ma è una fortuna, però il fatto di tenerci in buona salute in itinere è anche un nostro merito, per questo vi dico. Mi fermo qui perché vi dicono sempre che parlo troppo, avremo modo nei gruppi. Voglio comunque approfittare di questo momento di plenario per darvi due comunicazioni che tra l'altro sono già inseriti nei siti di Avis, dei ministeri, eccetera, però ad utilizzo poi nelle vostre sedi. Io, oltre che ad avere il grosso incarico e onere della vicepresidenza vicaria, ho l'incarico anche di seguire la scuola di formazione, e qui trovo terreno facile perché, insomma, dove c'è scuola, dove c'è formazione, ci siete voi che siete veramente i primi attori e non gli alunni ai quali dobbiamo insegnare, ma siete proprio protagonisti della formazione. Perché è autoformazione, autocrescita. Allora, due notizie: il 22 e lunedì 22 abbiamo rinnovato il protocollo d'intesa col Ministero della Pubblica Istruzione, che ci riconosce, oltre che la grandiosità anche strutturale della nostra Avis, ma ci riconosce come risorsa educativa del territorio, quindi rispetto anche alle nuove leggi della scuola, siamo, come dire, una risorsa grande da mettere a disposizione. Quindi il protocollo d'intesa rinnovato c'è sul sito del Ministero, c'è sul sito di Avis, fate in modo di utilizzare questo strumento che è un pass importante che ci dà, che ci facilita l'accesso alle scuole. L'altra cosa velocissima, lo strumento che è ancora in essere, il gruppo della solidarietà a disposizione delle scuole, è quanto mai in auge rispetto anche alle ultime normative su, per chi è persona di scuola, cittadinanza e costituzione, che è legge dello Stato, quindi disciplina obbligatoria trasversale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi come altri ci proponiamo con un prodotto pronto e fruibile. Altra cosa ancora, perché anche da questa giornata portiate a casa dei risultati grossi, ha detto prima Claudia, ci accusano di non fare abbastanza oppure di fare molto in questi momenti di sintesi, di presenza ad un livello più alto, potrete invece diventare molto più operativi se già non lo siete nelle vostre realtà, e l'idea di Avis Nazionale è di cercare di strutturare in tutte le regioni scuole di formazione permanenti, per quanto percorsi di formazione, una tantum, si fanno e si fanno dappertutto, ma ci sono delle esperienze bellissime che vorremmo condividere con voi. Abbiamo esempi di scuole di formazione consolidate, quali la scuola di formazione dell'Emilia Romagna, che fa scuola veramente per tutti, ma la Toscana, ma le Marche, ma una scuola interregionale della Lombardia, della Liguria. E vorrei che veramente invece questo modo di strutturare la formazione in modo che sia permanente e che raggiungesse tutte le nostre sedi si strutturasse in tutte le nostre aree regionali. E le vie di comunicazione, di richiesta anche pressante perché questo si faccia, si possa fare, c'è, però voi, se dal basso, tra virgolette, nel senso delle vostre sedi, siete anche portatori di questa esigenza, forse con forza spingerete a che questa strutturazione si possa fare e sia un veicolo più facile. Buon lavoro a tutti, avremo modo di vederci nei gruppi. Grazie. Regionale Emilia Romagna, già presidente nazionale e mi vento a dire già amico dei giovani perché in questi anni c'è sempre stato accanto. Benvenuti in Emilia Romagna. È con piacere che vi rivedo e posso augurarvi di persona, soprattutto alla nuova coordinatrice Claudia e al suo esecutivo, gli auguri di buon lavoro per questo mandato, ma conoscendovi quasi personalmente tutti, non ho dubbi che riuscirete nell'obiettivo di portare avanti l'attività dell'Avis e l'attività dei giovani in maniera superba. Che dire, ci fa piacere per l'Emilia Romagna e per Piacenza, che ci ha creduto moltissimo. Avervi qui, 267 è un numero molto alto, uno delle punte record del Forum Nazionale Giovani, quindi i miei complimenti anche agli organizzatori, quelli che hanno creduto in questo, e soprattutto auguri di buon lavoro per il tema impegnativo che avete scelto, gli stili di vita dei giovani, e mi auguro, sono sicuro, che ci sarà un largo dibattito, ci sarà un approfondimento e soprattutto ci sarà un risultato da parte dei gruppi di lavoro che porterà le nostre Avis ad avere argomenti di discussione, politiche da portare in discussione nelle nostre assemblee che sono già cominciate a livello comunale, e un arrivederci naturalmente a tutti i ragazzi sono qua presenti agli altri alla prossima Assemblea Nazionale di Montesilvano. Grazie, auguri. Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto felice di portarvi saluti non solo miei personali ma anche di tutto il consiglio direttivo del gruppo giovani. Come ha detto chi mi ha preceduto, noi ci abbiamo creduto molto, ci siamo impegnati, in particolare ripeto, il gruppo giovani, per la realizzazione di questo momento. Ci auguriamo che sia non solo un momento formativo di riflessione, di scambio di esperienze, ma anche di divertimento, e che quindi possiate anche ricordare piacevolmente l'ospitalità a Piacenza del nostro Avis. Grazie a tutti, buon lavoro e viva l'Avis. Passare alle relazioni, la parola a Antonio Tombolillo, referente delle politiche giovanili di Avis Nazionale. Grazie, anche il mio nome. Allora, prima ho controllato il nome perché Lillo, trovo Tombolillo, dice ma chi è questo? Ovviamente, stasera. Allora, no, una premessa, cioè... Hanno promesso di tenermi sotto controllo e lo stanno facendo, perché in mezzo presidente e vicepresidente, quindi hanno trovato il modo per tenermi sotto controllo. Ieri avevo altri due che mi controllavano, quindi però adesso vediamo come mi comporto. No, vabbè, a parte scherzi, è strano vedervi 260 ragazzi. Io qualche mese fa, quasi qualche anno fa, ero di là. Oggi sono di qua. Quindi per me è strano, sono molto felice ovviamente. 260 persone, come diceva Claudia, sicuramente è il primo record, il record che abbiamo raggiunto. Questo è il frutto di chi c'era prima e di chi c'è oggi, quindi non è un caso che si riesce a avere 260 ragazzi tutti insieme. Quindi è stato un buon lavoro della consulta uscente e sicuramente un buon inizio dalla parte della nuova consulta, oltre i ragazzi di Piacenza che veramente hanno dato una grande mano. Oggi è il compleanno del forum, oggi il forum può donare perché il 1993, di cui forse sono l'unico che ha partecipato a quel forum oggi presente, e sono passati 18 anni, quindi questo fa capire veramente come l'Avis giovane è cresciuta. Questo grazie ovviamente a prescindere dai dirigenti, di chi organizza e quant'altro, ma anche dalle sezioni di provenienza, perché credono in noi barra voi, cioè voi barra noi, che a volte non so dove mettermi. Quindi un ringraziamento va alle sezioni, alle Avis di appartenenza, perché sono loro che poi vi mandano, sono loro che vi finanziano, e quindi merito anche a parte loro. Questa è la crescita dell'Avis, di tutta l'Avis nazionale. Come diceva prima il dottor Rossi, il giovane è una ricchezza per l'Avis, e così è, infatti lo si vede da oggi, lo si vede da anni, chi sa benissimo. E questa ricchezza l'Avis non la vuole perdere, la vuole portare avanti, vuole che questa ricchezza aumenti, quindi questo dipende da noi, perché alla fine siamo noi, molti dicono il futuro del giovane, il presente del giovane, quindi voi siete qui e avete le vostre idee le dovete metterle in atto, come facevo a volte anch'io, potreste trovare dei problemi lungo il percorso, però non vi arrendete, andate avanti. Le idee che attenzionate devono essere vostre, non devono essere idee trasportate e trasformate da altri, altrimenti non è l'idea del giovane, ma è un'idea trasformata. Quindi voi avete la vostra idea e voi la dovete attivare. In qualunque modo, fatelo, provateci, se non va bene, provate la seconda volta, prima o poi voi ci riuscirete. Su 10 idee riuscite ad attivarne 5, beh, l'avete fatte, io ne avevo 30, ne ho attivate 10, le altre 20 sono superate, che è ovvio, poi si va avanti e quindi le altre 20 idee non sono più idonee e buone per guardare avanti. Vi auguro un buon lavoro. Sono sempre Lillo Matto, però quindi mi vedete con la giacca perché mi hanno obbligato, scherzo, la presidentessa ha detto lo vesti seriamente, quindi l'abito non fa il monaco. E ci vediamo più tardi nei gruppi, poi stasera farò uno spettacolo, grazie. Principale, passando alle relazioni dei relatori, che saranno circa di un quarto d'ora ciascuno più o meno, e partiamo dal gruppo dell'alimentazione, chiamato Pantaguele, perché ci è piaciuto. Mi hanno detto che i nomi dei gruppi non li cambia nessuno, però del dottor Terme. Salutiamo il sindaco e cominciamo i lavori. Ciao. Né veloce né brillante come gli oratori che mi hanno preceduto, che ringrazio per la loro merda. Cercherò di essere molto noioso e pedante, perché devo raccontare delle cose noiose e pedanti. Devo parlare di alimentazione. Come verrà detto e ridetto, l'alimentazione fa parte, una parte essenziale, forse la prima cosa, nello stile di vita. Una buona alimentazione fa molto per lo stile di vita. Io me ne occupo dal punto di vista della ricerca nell'Università Cattolica e mi occupo di come realizzare quella che oggi scientificamente è presentata come la migliore fra le diete possibili per l'uomo, la dieta mediterranea, che in realtà non è poi una dieta, è un'alimentazione. E di solito viene rappresentata con una piramide, cioè ci sono tante varianti diverse che non sto a discutere, che sennò ci porterebbe lontanissimo. Comunque, alla base di questa piramide, come sostegno di tutto, c'è l'attività fisica. Sta a me dirlo perché non sono un medico sportivo, ma l'attività fisica è una parte fondamentale del benessere e quindi della possibilità di ciascuno di noi di donare anche il sangue, non solo di fare una vita interessante e produttiva, che non fa mai male, ma anche di fare quell'attività specifica vostra. Quindi, il riassunto della dieta mediterranea, dicendo molto molto in breve come riassunto qui, attività fisica in continuo, cereali come base dell'alimentazione. Voi vedete che nella piramide ci sono diversi strati, ciascuno dei quali rappresenta la ampiezza che uno deve dedicare a questi componenti nella sua dieta. E alla base c'è il pane. Notate che questa dieta è stata codificata in paesi come gli Stati Uniti, dove il pane non è che si adoperi come l'Italia. Qui in Italia noi siamo abituati fortunatamente a usare i cereali come pane o come pasta come base dell'alimentazione e questa deve restare. Dopodiché, voi vedete, ci sono frutta, legumi, verdure e poi in quantità sempre minore il latte, i latticini, l'olio d'oliva come unico condimento, pesce, eccetera, eccetera, la carne rossa soltanto raramente. Allora, queste sembrano delle indicazioni così, abbastanza gratuite, immaginarie. No, queste derivano da un lavoro che è stato fatto per moltissimi anni e che ha portato a delle conclusioni che difficilmente si possono smentire. Cosa è stato fatto? È stato fatto un lavoro di ricerca su quella che è l'alimentazione mediterranea, nel nostro Mediterraneo. È stato fatto un lavoro di ricerca, cioè quella che come si mangia effettivamente, che cosa si mangia. Per confronto è stato visto che cosa si mangia in un'altra area mediterranea tipica, il Giappone. Il confronto è stato fatto con i paesi di cultura, diciamo così, anglosassone, soprattutto dove si mangia in modo molto diverso. Questi dati poi sono stati confrontati con la durata media della vita, che come voi sapete in Giappone e in Italia sono i più lunghi del mondo, con la frequenza dei problemi cardiaci, delle difficoltà circolatorie, del diabete tipo 2, dell'obesità. Sono tutte cose che sono non solo fattori di rischio per la vita, ma sono anche le più importanti, i più importanti ostacoli alla donazione di sangue, stando anche a quello che dirà poi dopo il vostro presidente. Quindi si è detto, fra il modo di mangiare mediterraneo e il modo di mangiare, diciamo, anglosassone, ci sono tanti altri modi, ma non sono così ben studiati. Quale è quello che porta a questo, a dei vantaggi, che diminuisce il diabete, che diminuisce le difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera? Questa è la dieta mediterranea. Ci sono milioni di dati raccolti in 20 anni di lavoro ed è così. Quindi la dieta mediterranea è, nei fatti, non nelle teorie, nei fatti, non nella pubblicità, non negli interessi economici di qualcuno, ma nella realtà delle cose, è quella che dà un minore rischio di obesità e sovrappeso, minore frequenza di diabete tipo 2, minore difficoltà circolatorie e di accumulo di colesterolo, meno problemi cardiaci, maggiore durata della vita, maggiore speranza di vita, come dicono gli statistici, e forse anche una minore incidenza di malattie come certi tipi di cancro e addirittura l'Alzheimer. Sì, personalmente trovo i dati statistici un po'. Però è stato detto. Allora, cosa dico? Questo è il Vangelo? No. Questo è una... non posso far vedere questa immagine. È un dato statistico, cioè è valido perché è stato ottenuto da milioni di dati in 20 anni di lavoro su migliaia e migliaia e migliaia, decine di migliaia di persone, quindi è corretto, però naturalmente non vale per ogni singola persona. E qui avevo preparato un esempio che, per fare in fretta, non racconterò troppo, ma dirò per esempio la sideremia, la quantità di ferro nel sangue, che ha diversi valori a seconda di maschio, femmina, eccetera, eccetera, ha una certa distribuzione. Voglio dire che se noi prendiamo 1 milione di persone maschie, quindi il conto è stato fatto sui maschi, noi ne avremo poco più di 5.000 che hanno il valore ottimale, medio. Ce ne sarà alcuni che ne hanno di più, altri che ne hanno di meno, e il numero che ne hanno di meno è senz'altro significativo. Voi vedete, a destra abbiamo quelli che ne hanno di più, che è altrettanto significativo, e voi vedete che c'è una certa probabilità che una persona, 100 su un milione, abbiano una sideremia, no scusate, 100 su un milione, sì, una sideremia sì, di circa 300 e qualcosa, contro i normali 100. Ogni persona è un'altra, ogni persona ha esigenze diverse anche per quanto riguarda l'alimentazione. Però la codifica che è stata fatta vale in generale. A differenza di tutte le altre diete che potete sentire suggerire, questa è l'unica che abbia una base nella realtà. E quindi molti alimenti vegetali, cereali, frutta e verdura, olio d'oliva, lì c'è un po' di discussione se anche il burro è accettabile, certamente per esempio la margarina non è accettabile. Quantità moderate di alimenti animali e come codifica rapida, veloce, sicura, le proteine devono rappresentare il 15% dell'energia, i grassi il 30% dell'energia, siccome i grassi danno energia più del doppio che non le proteine o gli zuccheri, questo significa che più o meno ci deve essere la stessa quantità in peso di proteine e di grassi, grosso modo. Più di metà dell'energia deve venire dagli zuccheri, con preferenza per i complessi, che sono gli amidi, quindi pane e la pasta, non dai dolci. Questa è una dieta che è quella che usava, che si faceva di fatto qualche decennio fa e che adesso purtroppo sta cambiando, e come prova della validità di questo tipo di alimentazione c'è il fatto che oggi, per esempio, l'obesità infantile sta crescendo rapidamente in maniera molto preoccupante. Il problema è che le piramidi alimentari e tutte le raccomandazioni che si possono fare sono poi difficili da concretare. Uno dei primi prodotti della nostra ricerca è stato questo libro, nel quale, usando le tradizioni alimentari italiane, quindi cercando di ottenere la qualità gastronomica dei prodotti italiani, usando ingredienti locali, buona qualità, eccetera, eccetera, riscoprendo i sapori antichi che magari qualche volta oggi sono trascurati, si consigliano dei piatti unici che permettono una alimentazione perfettamente equilibrata secondo l'ideale mediterraneo. Esempio, noi prendiamo le lasagne come le mangiamo di solito al ristorante, voi vedete la torta in basso, il 56% è dato dai grassi. Questa è una ricetta tipica del ristorante che io ho preso attualmente da un ristorante. Più del doppio, quasi il doppio della quantità raccomandabile di grassi. Una ricetta tipicamente piacentina, le lasagne che si facevano a Ferriere, come diceva Tocchini, avevano un bilanciamento già un po' più vicino all'ideale che viene raccomandato. Si possono fare delle lasagne perfette, ottimandole, come diciamo noi nel nostro gergo, e ottenere delle lasagne che hanno 15, 30, 55, esattamente come deve essere per la dieta mediterranea. Questo è un esempio di quello che si può fare, che si dovrebbe fare giorno per giorno, per prepararsi a quella che è la donazione di sangue e anche a, per vivere bene, perché vivere bene è importante, si sta molto meglio se si vive bene e se si mangia bene. E notate che il punto fondamentale rispetto ai costumi attuali è il consumo di carni. La quantità di proteine che è raccomandabile è circa la metà di quella che viene di fatto consumata oggi. Oggi mangiamo tutti come se fossimo al ristorante tutti i giorni, invece di mangiare e dedicarci agli eccessi alimentari che non fanno poi male alla salute, una volta alla settimana poniamo, il giorno di festa, non tutti i giorni. Noi possiamo fare dei calcoli analoghi per dire, e per venire più vicini forse a delle cose che possono interessare, a quali sono i supplementi dietetici, stiamo parlando di alimentazione, in occasione di una donazione. Mi hanno detto che ci sono molti fraintendimenti su quello che è la necessità. Io ho fatto un conto, proprio i conti della serva, una cosa banalissima, come sono abituato a fare. Quanto ferro c'è nel sangue? Normalmente i dati che vengono fissati per accettare un donatore sono quelli che ho indicato qui, da 6 milionesimi di grammo per 100 millilitri fino a 16 per il maschio e così via. Allora io, con una donazione di 450 millilitri, che è abbastanza massiccia, dono meno di un milligrammo di ferro, posso dire anche meno di un decimo di milligrammo di ferro, se non si dire mia basta. Quanto alimento devo mangiare per ripristinarlo? Prendo uno o a caso, il fegato è abbastanza ricco, il fegato di pollo non è molto ricco di ferro. Però 100 grammi di fegato di pollo, che è una porzioncina di pollo, ne contengono 9 mg, cioè da 10 a 100 volte di più di quello che io dono con 450 ml di sangue. Mi basta, siccome è tutto assorbibile questo fegato, è tutto disponibile, mi mangio a mangiarne un grammo, da un grammo a 8 grammi. Quindi non ha nessuna ragione d'essere il mangiare la carne, soprattutto rossa, in occasione di una donazione. Un conto analogo io lo posso fare per le proteine. Le proteine sono qui nel sangue, adesso per fare in breve questo conto che lo potete trovare, che lascio qui la relazione. Le proteine ce ne sono parecchie nel sangue, molte di più di quanto non ci sia del ferro, cioè sono quasi 20 grammi per 100 ml. 20 grammi di proteine, sempre prendendo il fegato di pollo, quanto pollo mi chiede? 4 grammi al giorno in più. 4 grammi al giorno in più. Allora, la quantità di carne che noi mangiamo è normalmente eccessiva. La quantità che può essere usata per ripristinare le riserve, in caso di donazione, sono parimenti assolutamente eccessivi. Se vi interessa, ci sono dei lavori che noi abbiamo preparato, uno il libro che avevo citato, poi altre cose che possono guidare, se siete curiosi, e che spero che lo siate, perché la dieta, l'alimentazione sono il fondamento di tutto. Li trovate qui, li trovate in biblioteche, in letteratura, in internet, li trovate dappertutto. Grazie dell'attenzione. Ringrazio il dottor Terré per la esauriente spiegazione e direi di passare alla dottoressa Colette Gallotti, che invece ci parlerà di psicologia e sessualità, insomma tutti quegli argomenti un pochino più interessanti inerenti alla donazione di sangue. Buongiorno, io ho deciso di trattare nella mia relazione due grandi argomenti. Da una parte quegli aspetti presenti all'interno della vita di ciascun giovane che sono o che possono diventare dei comportamenti a rischio. Dall'altra ho voluto però trattare anche di prevenzione e di promozione del benessere, quindi di uno stile di vita sano, soprattutto nella tematica di interventi efficaci o meno efficaci. Partiamo da un primo elemento presente nella vita dei giovani, che è la sessualità. Si è addirittura abbassata l'età dei primi approcci sessuali e questo chiaramente può andare ad aumentare il rischio che legati all'ambito della sessualità. È chiaro che la sessualità ha delle caratteristiche estremamente positive e apporta un beneficio alla vita psico-emotiva di ciascun individuo. ma questo non la risparmia nel poter diventare un comportamento a rischio. Si parla di comportamento a rischio perché, se lo sapete tutti, vi sono delle malattie che si trasmettono tramite un contagio sessuale e diventa un comportamento a rischio quando viene affrontata con ignoranza, superficialità e inconsapevolezza. Ogni anno c'è un giovane su all'incirca 20, sotto i 25 anni, nel mondo che si contagia con una malattia sessualmente trasmissibile. In questa percentuale l'HIV è escluso, quindi va poi aggiunto tutti i giovani che ogni anno si contagiano. Nel mondo, sono i dati dell'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al momento ci sono 34 milioni di persone infettate e 2,4 milioni dei nuovi infettati sono nel 2009. Non solo in Africa, nella quale comunque risiedono circa i 2/3 degli infettati, ma centinaia di migliaia di nuovi infettati anche solo nell'Europa occidentale. Spero di non dirvi niente di nuovo se vi parlo di questi virus. L'HIV, il virus dell'epatite B, il virus dell'epatite C, sono virus che si trovano nel sangue e in generale in tutti i componenti, in tutti i liquidi biologici dell'uomo. E sono virus che si trasmettono tramite un contagio sessuale, oltre che chiaramente tramite un contagio diretto sangue-sangue. Quindi potenzialmente con strumenti chirurgici, con lanette, piuttosto che tramite tatuaggi o piercing. C'è poi una trasmissione verticale da madre a feto. Forse meno noti sono i virus e i batteri invece sotto, però altrettanto gravi, come per esempio il papillomavirus, che è il responsabile del tumore della cervice, quindi del collo dell'utero nelle donne. E poi ancora sifilide e gonorrea che stanno ritornando. E poi la clamidia, che è molto meno grave dei virus precedenti, però per esempio può essere responsabile di alcuni casi di sterilità nella donna, e poi gli herpes, che sono meno gravi ma altrettanto fastidiosi. A questo punto le vie sono due per proteggersi: o c'è l'astinenza oppure c'è il preservativo. Quindi evitare tutti i rapporti occasionali non protetti. Perché invece continuano i comportamenti a rischio? Che cosa alimenta il perpetuare di questi comportamenti a rischio? La scarsa conoscenza, in primis, ma anche le false credenze, tipo l'idea che è radicata in tanti, soprattutto adolescenti, che se capita una volta sicuramente non c'è rischio di contagio, per esempio. In realtà non è assolutamente vero. La superficialità con il quale magari si affronta la sessualità. E il quarto punto è molto importante attualmente, ovvero l'aumento dei comportamenti a rischio, cioè quindi una sessualità a rischio perché aumenta il comportamento disinibito indotto da sostanze stupefacenti. Quindi io ho tutta la cultura, tutta la conoscenza circa i comportamenti a rischio legati all'attività sessuale, ma sono ubriaco o sono sotto l'effetto di tanti stupefacenti, è chiaro che attuerò un comportamento maggiormente disinibito, il mio livello di rischio è abbassato e quindi potrò incappare in questi pericoli. È chiaro che laddove questo si verifica c'è stata una prevenzione inefficace, comunque. La seconda parte è invece legata all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Ha un'accezione molto diversa rispetto alla sessualità, nel senso che l'utilizzo di sostanze è già di per sé un comportamento a rischio, ha un'accezione negativa a 360 gradi. Qua ho voluto mettere una grossolana distinzione rispetto alle sostanze, che possono appunto essere categorizzate in base all'effetto. Ci sono effetti sedativi o rilassanti alla muscolatura, come tutti gli oppiacei, quindi la morfina, l'eroina, oppure invece ci sono sostanze che hanno un effetto eccitante e stimolante, come per esempio la cocaina, tutte le anfetamine, l'MDMA, l'ecstasy, che sono poi le nuove droghe, e poi gli allucinogeni. Allora, sul perché delle dipendenze si potrebbe star qua e parlare una giornata intera. In linea di massima sappiate che il momento dell'adolescenza e comunque l'età di giovinezza è un momento di un fisiologico conflitto, di dubbi, di instabilità. Si può superare la fluttuazione emotiva e quindi arrivare arrivare a una gestione, a una modulazione equilibrata delle emozioni, laddove c'è di base una personalità integra, un buon supporto familiare o sociale. Questo primo passo può anche non esserci e allora si precipita nella confusione, nel vuoto o in un forte dolore. Laddove proverò il senso di vuoto e il senso di confusione, andrò a ricercare lo stimolo forte. Viceversa, laddove avrò un profondo malessere interiore, cercherò l'anestesia, quindi cercherò la soppressione e l'eliminazione di tale malessere e quindi preferirò alcuni tipi di sostanze, quali visti prima, che hanno effetto rilassante di soppressione. L'uso di dipendenza diventa un comportamento a rischio perché? Perché chiaramente le sostanze provocano una dipendenza, provocano degli effetti deleteri sul fisico, sul metabolismo, sulle capacità cognitive. E poi non solo, perché lo scambio di siringhe apporta al pericolo di contagiarsi con HIV, virus dell'epatite B e virus dell'epatite C. In realtà attualmente il contagio tra tossici è in diminuzione, mentre, come dicevo prima, lo è molto di più tra giovani che fanno anche magari saltuariamente uso di sostanze, ma che nel momento in cui poi ne fanno uso hanno un comportamento sessuale maggiormente disinibito, con un aumento quindi del rischio legato appunto alla sfera sessuale. Ok, a questo punto quindi quali sono gli strumenti necessari per proteggerci? È la prevenzione, è la promozione dello stile di vita sano. E perché è importante fare prevenzione? È importante a prescindere perché ci aiuta a sviluppare la capacità di mantenere uno stile di vita sano, quindi ci aiuta a mantenerci in salute. Dall'altra aumentano nel donatore in particolare la consapevolezza riguardo ai comportamenti a rischio per la salute. E non solo, ma facilitano la procedura di autoesclusione nel caso in cui si arrivi alla consapevolezza di aver affrontato, di aver attuato un comportamento a rischio. Quindi, da una parte sappiamo quali sono i comportamenti a rischio, dall'altro c'è stata molta prevenzione, ci sono state, si sono susseguite a partire dagli anni 80 molteplici campagne di promozione e soprattutto campagne contro l'HIV. Però vorrei farvi riflettere sul fatto che queste campagne hanno anche parzialmente fallito. E il parziale fallimento risiede proprio nel fatto che ci si contagia ancora oggi. E ripeto, non solo ci si contagia in Africa o comunque in paesi in cui magari c'è un livello culturale inferiore, ma ci si contagia anche qui. Perché? Perché probabilmente le campagne di prevenzione hanno avuto degli errori o quantomeno dei punti deboli. Questi sono fondamentalmente i tre punti deboli che le campagne hanno poi perpetuato. Sicuramente il primo punto è la diffusione del concetto di categoria. Nei primi anni 80 si inizia a parlare di HIV e si parla di categorie. Di omosessuali, di tossicodipendenti, di prostitute. E quindi si radica nella popolazione il fatto che se non sono una prostituta, se non ho contatti con prostitute, non sono un tossico e non ho rapporti omosessuali, io sono assolutamente immune dal potermi contagiare. Passano gli anni e si comprende meglio le modalità di contagio, non solo sessuali ma anche per via diretta, come dicevamo prima, o per via verticale. Si inizia a parlare non più di categoria, ma di comportamento a rischio. Non esistono categorie, ma esistono dei comportamenti invece che ci possono mettere in pericolo. Il problema però è che nell'immaginario collettivo il concetto di categoria è rimasto. È rimasto perché è un concetto rassicurante. Ci rassicura il fatto di sentirci immune laddove non mi comporto in un certo modo. Ancora oggi vedo pazienti che sono assolutamente stupiti di essersi contagiati perché non si ritenevano appartenenti a nessuna di quelle categorie. È importante invece far passare il messaggio che non esistono categorie, ma esistono dei comportamenti e che se si attuano questi tipi di comportamenti siamo tutti assolutamente vulnerabili. Il secondo punto debole è stata che purtroppo l'informazione pura non è sufficiente, nel senso che l'informazione, e ci tengo a precisarlo, è la base, sono le fondamenta, perché se io ho le conoscenze io ho il primo strumento per proteggermi. Però non è sufficiente, perché il comportamento sessuale, ma anche la decisione di fare uso di sostanze stupefacenti, non hanno soltanto una base di fattori cognitivi, ma sono guidati da fattori motivazionali molto complessi. Cioè il comportamento sessuale è guidato anche da una base istintiva, da dei fattori emotivo-affettivi, socio-relazionali, che nonostante io possa avere una buona cultura, delle buone conoscenze, in quel momento possono essere predominanti. E quindi guidarmi, spingermi, presi dall'impulso, verso un comportamento a rischio. Il terzo punto debole è stato dal fatto che col passare degli anni ci sia un po' assuefatti da queste campagne di promozione, soprattutto contro l'HIV. Hanno un po' perso di valore. Faccio un esempio molto banale, che per esempio è rappresentato dall'etichettina che c'è sul pacchetto di sigarette. Il fumo uccide, il fumo nuoce veramente la salute, il fumo ha effetti sul feto terribili, eccetera. Cioè, sono messaggi che hanno un contenuto, insomma, terrificante, ma quanti di voi che fumano ci fanno caso, o quanto questo messaggio influisce sulla vostra voglia di fumare? Cioè, oggettivamente non moltissimo, perché oramai ci si è assuefatti, forse si presterebbe più attenzione se non ci fosse il messaggino. Quindi da qui l'importanza di continuare chiaramente con le campagne di prevenzione, ma diversificarle nel messaggio, nei mezzi, nei canali di comunicazione. Quindi un intervento efficace è un intervento che fornisca informazioni chiare, dissonante, e per dissonanza intendo un intervento che crei un spiacevole effetto, inducendo l'idea del rischio e l'emozione di paura ad uno stato di piacere. Quindi, nel momento in cui io sto attuando un comportamento a rischio, che chiaramente mi provoca piacere, se io ho subito una prevenzione efficace, in quel momento io lo associo all'idea del rischio e della paura. E se in quel momento io sento, ho la percezione del rischio e ho la percezione della paura, smetterò di attuarlo. E poi che sia un messaggio modificato nel tempo, sempre diverso e personalizzato. Molto in generale, quali sono gli strumenti di prevenzione? In primis l'educazione sanitaria, da cui non si può appunto prescindere, che è una informazione data anche alla grande popolazione, quindi a grossi gruppi di persone, non personalizzata, ma che però favorisce ed aumenta le conoscenze. E questo è già sicuramente tantissimo. Però si può fare un ulteriore gradino, si può fare un ulteriore passo verso l'eccellenza con la promozione degli interventi di counseling. Il counseling è una relazione d'aiuto tra una persona specializzata e un utente, basata sull'ascolto, sul dialogo, sul supporto, e che è chiaramente orientato a modificare un comportamento. Mi permette di attuare un intervento personalizzato a questa persona. E avendo davanti un individuo piuttosto che un altro, io posso modulare il dialogo, la comunicazione, i concetti, il significato, in base appunto a chi ho davanti. Il comportamento a rischio è molto più probabile che venga modificato dopo un intervento di counseling, proprio per via della sua personalizzazione rispetto che ad ampie campagne di educazione sanitaria. Si fa per esempio nei SERT, nei servizi per tossicodipendenti, in cui si prende individuo per individuo e lo si educa. Per spiegarvi meglio, un messaggio generale che può essere fatto durante una campagna sanitaria, durante un'educazione sanitaria, può essere usare il profilattico. Perfetto. Però ha molta più presa se ho davanti un singolo individuo e lo invito a comprarlo immediatamente, a portarlo sempre con sé. Oppure, se nel discorso generale si parla di evitare la poligamia, fa molto più presa il dire di evitare di avere rapporti, molti rapporti occasionali, o di evitare persone a cui piace avere molti partner. E per esempio all'idea generale di fare sesso sicuro si può parlare più specificatamente dell'idea che se si vuole uscire la sera e con il fine poi di avere una relazione, però basta evitare di ubriacarsi o di fare uso di stupefacenti. O introdurre e parlare apertamente dell'idea di fare il test dell'HIV se si sa di aver avuto in passato dei comportamenti a rischio, di parlarne apertamente col partner e di farlo insieme, per esempio. In ultima istanza, un altro problema legato ai comportamenti a rischio è la valutazione costi-benefici, perché il comportamento tende ad essere rifiutato se c'è un costo troppo elevato rispetto al beneficio, e questo è un problema in effetti esistente, perché se già c'è nel giovane l'idea che magari il preservativo, idea scorrettissima, possa comunque non essere necessario, non essere sufficiente per proteggersi, se a questo sommo il fatto che magari l'utilizzo del preservativo possa aumentare il senso di inadeguatezza, di insicurezza, perché magari il partner non è d'accordo, e se a questo sommo ancora il prezzo dei preservativi, è chiaro che ci potrebbe essere il rischio che i costi superino i benefici e che non venga utilizzato. Quindi anche in questo caso cercare invece sempre di attuare una promozione verso il benessere, verso la salute. In conclusione, il ruolo dell'AVIS qual è? È fondamentale, perché potete essere promotori di una cultura della salute, potete fare informazione sia alla grande popolazione che invece attuare interventi capillari e promuovere stili di vita salutari. Non solo, penso che è possibile che all'interno dell'AVIS possa essere promosso un contatto diretto tra utente esterno donatore, tra un possibile donatore e donatore anziano, tra donatori, un contatto diretto, un intervento personalizzato con tutti i benefici che descrivevamo prima, un intervento basato sul dialogo, sull'ascolto, in un'atmosfera non giudicante, acritica, ma di condivisione di obiettivi per la salute. E chiamerei qui il dottor Bonomini. Questa sera tutti hanno letto il resto, ognuno ha la propria stanza con questa lezione. Allora, io non gioco a basket, non ho mai giocato a basket. Ho messo il canestro perché ne faccio il medico per una società di basket e seguo le ragazze di questa squadra, sono molto brave, giocano in Serie B, tutte giovani tra l'altro, sono molto giovani, e è sempre bello stare in mezzo alla gente che ama lo sport, queste ragazze lo amano davvero. Io però anticamente, quando ero ancora più o meno della vostra età, anche prima così lo sport lo facevo, adesso non più, ahimè. Giocavo a rugby, ho fatto anche altri sport, guardi marziali e cose di questo tipo. E finché facevo sport vi assicuro che stavo meglio di come sto adesso. E nella mia pratica di medico, io faccio il medico di famiglia, sono uno di quelli che stanno proprio a contatto con la gente e così, vedo i risultati di non aver fatto sport. Perché una delle cose maggiori, per esempio, di cui tutti parlano poco così, è che la maggioranza delle persone che non hanno mai fatto sport hanno più mal di schiena degli altri. E uno dice, vabbè, no, ma tutto questo poi dopo ha delle conseguenze, perché quelli che hanno il mal di schiena prendono degli antinfiammatori, fanno male ai reni, al fegato, alla pressione. Allora, lo sport è un'occasione. È una parola molto semplice, ha due accezioni. Una quella dell'agonismo, e forse qua qualche cosa potremmo anche avere come ombra, perché l'agonismo sperticato, quello dello spettacolo più acceso, quello dei grandi campioni così, non è proprio così tanto positivo. Faccio un esempio per tutti. Io quando parlavo con un mio paziente, calciatore, molto amante del calcio, così dicevo, ma scusa, che effetto ti fa sapere che Maradona continuava a prendere cocaina, a farsi di qualsiasi cosa, la spacciava in giro così? Ah, ma giocava bene a calcio. Al che mi faceva molto rabbrividire questa cosa. Invece l'altra parte positiva è quella che lo sport, anche agonistico, lo fanno per il piacere di fare dello sport. Allora, dentro allo sport ci sono un po' di parole, sono queste qua. Noi poi insieme dovremmo trovarne tante, perché credo che lo specifico proprio dell'ARIS e dello sport sia quello di essere utili, cioè di servire a qualcosa. Prima di tutto servire alla salute, ovviamente. Fare sport serve alla salute, donare serve alla salute. Non è un dato di fatto senza prove, ci sono un sacco di evidenze scientifiche che dicono che fare sport fa bene alla salute, non troppo, il giusto, non bisogna esagerare perché gli eccessi fanno comunque male, però anche soltanto la pratica sportiva normale, tranquilla, aiuta ad avere meno malattie cardiovascolari. Dato di fatto, assodato è così, come è un dato di fatto che fare la donazione di sangue aiuta, poi lo sentirete dire anche dopo, aiuta ad avere dei globuli rossi più attivi, più giovani, il ricambio di sangue aiuta anche la salute. Poi la partecipazione, anche qua la partecipazione è assolutamente importante, perché gli stili di vita non li cambiate a parole, li cambiate nei fatti, cioè bisogna esserci dentro per cambiare le cose. Quindi praticare e far vedere che parte dello sport è un'opportunità, quella di mettere insieme l'ARIS e lo sport, perché tutti e due hanno un sacco di valori, hanno molte cose da comunicare positive e fanno cambiare la gente, ma proprio dentro, perché ci sono molti motivi per cui fare dello sport aiuta anche a livello psicologico, a livello sociale. C'è qualcuno che diceva comunque, a caso, i romani, mens sana in corpore sano, da loro lo facevano come pratica regolare sociale, cioè tu dovevi praticare dello sport anche, per esempio, per avere qualche considerazione a livello politico, cioè se non facevano gli sportivi bene, questi qua non erano molto apprezzati. La responsabilità, noi non è che abbiamo responsabilità solo nei nostri confronti, abbiamo responsabilità anche per il futuro, perché avremo responsabilità per i figli, per i nipoti, per tutto quello che avete. Un comportamento responsabile, un comportamento che facilita l'attività sportiva, la donazione di sangue, tutte queste cose, è un comportamento che cambia in meglio la società. Non è un caso che comunque in Italia si viva più a lungo che da altre parti, perché probabilmente siamo in qualcosa forse un pochettino più bravi di altri posti, dove comunque hanno più risorse da spendere. Non siamo quelli che spendono di più per la salute, come non siamo neanche quelli che spendono di più in sport, e questo forse è un fattore molto negativo. E l'ultima è la testimonianza, non vi dico mica altro, cioè solo la testimonianza. Fate il conto che voi, come donatori, come persone giovani che si impegnano, e magari si impegnano anche nello sport, ma anche solo a prendere contatti con lo sport, per trasformarli in mezzi positivi, siete assolutamente importanti, perché testimoniare è fondamentale. Avete seguito quello che si diceva prima, no? Tutti gli stili di vita, se sono vissuti e testimoniati, hanno molta più efficacia. Cioè, voi siete degli alfieri, cioè avete la bandiera in alto, la bandiera della gioventù, dell'attivismo, di tutto quello che volete. Ce ne avete un sacco di cose da dire e da fare. Fateli sentire e chiamate gli altri a farlo sentire insieme a voi. Perché le sinergie sono quelle che cambiano e quelle che danno risultati. Noi abbiamo bisogno di donatori di sangue. Abbiamo bisogno di gente che sia sana, abbiamo bisogno di gente che comunque attraverso anche l'attività sportiva garantisca alla popolazione un futuro migliore. mi sembra poco. Grazie. Ultimo, ma non ultimo. Dovrei cambiare computer. Ah, quindi devo intrattenere con te. No. Però passo la parola a Lillo. No, ho già dato prima. Mentre diciamo sistemiamo tecnicamente il PC per l'ultimo gruppo, che poi ovviamente è quello della donazione, perché è il gruppo finale che raccoglie un po' l'output di tutto quello che abbiamo detto finora. E io ti passo la parola così intrattieni tu. Un quarto d'ora, va bene, ma lei è stato bravissimo, che ha recuperato un po' perché ne ho qualcuno in più. Stavo commentando che io ho fatto un po' di sport, di pallacanestro, però la schiena mi fa male lo stesso, quindi mentre c'è qualcosa che non funziona. È l'età quella, non è il... Allora, mi è stato dato il compito, nel senso che l'abbiamo condiviso peraltro, di parlare dei rapporti tra gli stili di vita e la donazione di sangue. Io ho voluto aggiungere anche che la donazione di sangue è lo stile di vita, ok? Quindi dopo cerchiamo nella chiacchierata e sicuramente poi nei lavori di gruppo di parlarne un po' nel dettaglio. Allora, tutti noi sappiamo qual è l'obiettivo principale della nostra associazione, che è quello di garantire sangue sicuro e di qualità a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, che arrivi da donatori con delle caratteristiche ben definite che poi analizzeremo successivamente. D'altro canto però abbiamo visto negli ultimi anni una crescita notevole dei fabbisogni, delle richieste di sangue dei pazienti. Si diceva l'età aumenta, la capacità di dare delle risposte terapeutiche adeguate è migliorata negli ultimi tempi e il supporto trasfusionale sta diventando sempre più importante, quindi diventa una terapia sempre più richiesta. Peraltro però è un trapianto di tessuti e quindi come tale non è esente da rischi nel momento in cui si attua. Allora, gli obiettivi che noi quindi perseguiamo principalmente sono sicuramente quelli dell'autosufficienza, la qualità e la sicurezza, ma non solo. Nel senso che i donatori, come li intendiamo noi, poi lo vedremo più avanti, ci permettono anche di monitorare lo stato di salute loro, ma anche dei pazienti trasfusi, di fare prevenzione e di fare promozione di stili di vita sani. Oggi mi hanno detto che dovremmo essere anche un po' così, simpatici, eccetera. Ho portato un video, che spero si senta anche, non so se si veda, per dire quali possono essere gli effetti della trasfusione. Investite lo verde. confusione, insomma, ecco. Allora dicevo che, tornando a noi, i rischi trasfusionali sono molti. Il vantaggio che noi abbiamo oggi, come vedremo tra un attimo, è che conoscendoli abbiamo la possibilità di prevenirli e ridurre il rischio a dei valori veramente molto molto bassi. Sono tantissimi, non li elenchiamo, dopo ne parleremo nelle riunioni. Io ho tante diapositive, ma le scorro tanto per darvi dei flash. La maggior parte delle cose le trovate nella relazione, poi possiamo comunque approfondirle. In generale, quando si parla di malattie infettive a livello internazionale, si considerano come la seconda causa di morte nel mondo, che colpisce 15 milioni di persone, che causa la morte di 15 milioni di persone all'anno. Il tema che è stato trattato nei comportamenti a rischio dalla dottoressa Gallotti prima è esploso, diciamo così, per quanto riguarda il tema dell'AIDS o del virus dell'HIV. Chi ha seguito un po' l'andamento dell'epidemiologia aveva visto una crescita esponenziale del numero di contagiati attraverso la trasfusione per il virus dell'HIV. Quando si è scoperto qual era la causa e quali erano i comportamenti a rischio per la trasmissione del virus, che poi, se era nel donatore, poteva essere trasmesso al paziente, le misure che sono state messe in atto hanno portato a una progressiva caduta quasi verticale del rischio di contrarre questa infezione attraverso la trasfusione di sangue. Peraltro esistono ancora dei possibili scostamenti da questo ragionamento, e ne sono legati fondamentalmente a queste quattro cause. La donazione fatta durante la fase finestra, cioè quando ancora non abbiamo la capacità di individuare la presenza del virus, se ci sono delle varianti virali, se ci sono delle sieroconversioni atipiche o se ci sono degli errori di laboratorio. La finestra sierologica è quella che vi dicevo, da quando la persona si è contagiata a quando noi siamo in grado di individuare la presenza del virus o degli anticorpi. E con l'introduzione del test NAT, che va a vedere se c'è il virus, non solo se ci sono gli anticorpi nel sangue della persona, questo dato si è ridotto drasticamente, perché oggi come oggi, per quanto riguarda ad esempio l'HIV, si parla di una periodo finestra di 7-12 giorni, quindi un tempo estremamente ridotto. L'altro passaggio è che esiste la possibilità che ci siano delle varianti dei vari virus che noi non riusciamo a individuare con i test normali. Per esempio, quello più classico è il virus, la variante 0 dell'HIV, che è più frequente in alcune parti del mondo, oppure varianti del virus dell'epatite B che da noi non sono frequenti, ma considerati i flussi migratori, questi potrebbero diventare un parziale problema anche da noi. L'altro aspetto è la possibilità che ci siano delle sieroconversioni, cioè ci sia la possibilità di una produzione di anticorpi anomali rispetto a quelli normali, che quindi non si riescono poi a evidenziare nel corso degli esami usualmente eseguiti ai donatori. Infine ci possono essere sempre gli errori di laboratorio, non sto a elencarli, ma la possibilità che comunque ci sia un errore durante l'effettuazione degli esami esiste sempre. Allora, se noi andiamo a combinare queste varie possibilità, si è visto che il vero rischio residuo che può portare a non considerare a zero la possibilità di trasmettere alcune infezioni con la trasfusione è legato fondamentalmente al periodo finestra, che rappresenta circa il 90% delle ipotesi per l'epatite B e l'HIV e circa il 75% per l'epatite C. D'altro canto, le malattie infettive stanno diventando un problema aggiuntivo nell'era della globalizzazione, no? Perché noi giriamo, ci muoviamo, sia noi che andiamo in altri paesi, sia riceviamo persone che arrivano da altre parti del mondo, al punto che siamo qui nella regione che è diventata un po' tropicale negli ultimi anni, nel senso che proprio da questa regione sono così emerse delle problematiche come la febbre di chikungunya. Qui ci sono degli altri colleghi in sala, a me piacerebbe chiedere qualcuno dei medici che ci sono qui se avevano mai sentito parlare della chikungunya. Cioè, io ho studiato, ma io proprio questa roba non l'ho mai sentita. Adesso sono diventati espertissimi su questa patologia. Uno diceva, vabbè, sono andato alle Comore, mi sono fatto un bel viaggio alle Comore e mi sono venuto a casa con la febbre di chikungunya, che rogna, vabbè. No, uno è andato, con tutto rispetto, voglio dire, però invece è andato a Mirabilandia con i figli e è tornato a casa con la chikungunya. Insomma, non è che è proprio contento di questa prestazione. Piuttosto che altri virus, il virus del Nilo occidentale, c'è stato il periodo della SARS, l'anno scorso abbiamo avuto l'ipotetica epidemia di virus dell'influenza A e quant'altro. Ma perché è importante? Perché adesso vi dico alcuni flash iniziali per poi arrivare a dire cosa c'entrano gli stili di vita, la donazione e la sicurezza, no? Perché questi sono per inquadrare il tema. Le malattie infettive possono essere già di per sé un problema, ma alcune malattie infettive sono responsabili dell'insorgenza poi di altre patologie, a volte anche molto più serie. Ho citato tre esempi, il batterio, che quindi non è un virus, ma un batterio che è l'Helicobacter pylori, che è molto frequente, di frequente riscontro in chi fa una gastroscopia, può essere responsabile per una buona quota di neoplasia a carico dello stomaco. Il papilloma virus, conosciamo tutti, adesso c'è la campagna vaccinale delle ragazze, è responsabile probabilmente del 100% dei tumori della cervice uterina. Le infezioni dell'epatite B e dell'epatite C sono responsabili dei tumori a carico del fegato. Quindi non è solo l'infezione in quanto tale che dà dei problemi, ma può dare delle conseguenze anche in futuro. Allora, se noi abbiamo quelle conoscenze, quali sono gli interventi che noi possiamo mettere in atto per far sì che il rischio trasfusionale sia bassissimo? Prima, impiegare donatori a basso rischio, selezionarli accuratamente e fare tutti i test necessari. I primi due chiaramente possono essere di competenza anche dell'associazione, i test no, e quelli sotto neanche, se non un'opera di così convincimento, ma il nostro ruolo si esaurisce fondamentalmente ed è quello essenziale nelle prime due fasi e per quanto riguarda tutti i presenti nel ricorso a donatori a basso rischio. Non a caso questo è un tema importantissimo, addirittura nel 2000 la giornata mondiale della salute è stata dedicata proprio alla sicurezza trasfusionale. Noi abbiamo tutta una serie di normative che ci indirizzano verso il garantire la massima sicurezza trasfusionale e un punto che si diceva nell'intervento della dottoressa Gallotti era quello di dare informazione. Chiaramente qua si parla di un'informazione generalizzata che riguarda l'universo mondo dei donatori, non specifica come quella che viene fatta in un secondo momento sul singolo donatore. È previsto un questionario che tutti voi conoscete, che ha un numero di domande elevato, ma è che è indispensabile per conoscere lo stato di salute di quel donatore ai fini della sua salute e di quella del ricevente. Siccome il tema dell'HIV, come è stato ben presentato prima, è un tema che ha guidato molto, no, le problematiche collegate con la trasfusione, nel 1994 l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme alla Federazione delle Mezzelune e Croci Rosse Internazionali e altre società, hanno individuato un percorso che è un po' quello che diceva nel suo intervento la dottoressa, non a caso me l'aveva insegnato il professor Satrotti, quindi ovviamente ho imparato da lì, che prevede un passaggio molto mirato nel percorso di idoneizzazione del donatore, che parte da un discorso più ampio di informazione generalizzata dei temi collegati con i comportamenti sessuali a rischio o altri comportamenti a rischio, che prevede una valutazione puntuale di quella persona, quindi un counseling vero e proprio, che può essere svolto anche dal volontariato organizzato del sangue come ABIS, che poi fa scattare il reclutamento o meno di quella persona come donatore periodico. E allora veniamo alla sintesi di quello che noi proponiamo. Noi proponiamo una donazione consapevole, qualcuno di voi me l'ha già sentito dire, spero che non si annoi perché io ne sono convinto, quindi lo ribadisco, perché per noi il donatore consapevole è un donatore che è periodico, volontario, anonimo, non remunerato, responsabile e associato. Allora, alcune di queste definizioni sono considerate a livello internazionale come fondamentali, no? Tutti parlano nel mondo che i donatori devono essere volontari, non remunerati e periodici, questo lo dicono più o meno tutti. Noi aggiungiamo qualcosa in più, perché secondo noi l'anonimato della donazione dà un valore aggiunto a quello che facciamo, la responsabilità non giuridica, non legale, ma responsabilità di consapevolezza di quello che si fa dà un valore aggiunto e questo valore aggiunto viene garantito dall'essere associati ad ABIS. Questa consapevolezza aumenta la sicurezza per il donatore e per il paziente, aumenta la tutela della salute di questi donatori, perché ci sono più controlli sia dello stato generale di salute sia sugli esami e poi tutta una serie di altre situazioni che non vi elenco per brevità, ma che portano ad avere il massimo della qualità della donazione e il massimo della garanzia di sicurezza per il donatore intanto che sta donando e per il ricevente successivamente. Tutti questi ruoli li svolge ABIS. All'interno di questo noi abbiamo un passaggio ulteriore, Nel senso che è vero che la nostra missione fondamentale è quella di promuovere la cultura della donazione e far crescere quindi il numero di donatori e il numero di donazioni, ma è anche vero che proprio per la connotazione sanitaria, proprio per l'attenzione che noi poniamo a tutto il percorso, noi interveniamo anche in queste fasi che vanno nel discorso della prevenzione e della promozione di salute. Allora, è un dato vecchio, quindi in sala ci sono persone più esperte di me su questo, io l'ho riportata solo per farvi riflettere, non tanto non prendete questi numeri come attuali, probabilmente saranno anche cambiati, ma il discorso è, siccome parliamo di stili di vita, allora si è visto che facendo una modifica dei propri stili di vita si riduce non solo il rischio di ammalarsi, ma addirittura il rischio di morire per quelle cause lì. Quindi so che mi dico chi fuma, eccetera, ho capito, però bisogna dirselo, insomma, voglio dire. Poi dopo uno sceglie perché il messaggio non è convincente sul pacchetto di sigarette o quant'altro, però perlomeno è consapevole che alcune situazioni che può scegliere di continuare a fare o di non fare più possono esporlo a dei rischi anche importanti per la propria salute. Questo vale sia per situazioni legate a malattie cronico-degenerative nell'ambito dei tumori, sia cronico-degenerative nell'ambito delle patologie cardiovascolari. Nel 2005, sei un po' stortato lì, cambio di computer, vabbè. Per fortuna che non essere spostato con dell'alcol, sennò pensavamo che avevamo sbagliato bevendo. Dicevo che nel 2005 l'OMS ha individuato 10 fattori di rischio generali per la salute. E anche qui ha messo per primo il fumo di tabacco. Vabbè, se c'è qualcuno che lavora a Marlboro mi gambizzerà, pazienza. Ma poi ci sono tutta una serie di altri. Di questi, l'ultimo, se vedete, è anche la carenza di ferro, che è una situazione che noi riscontriamo con una certa frequenza anche nei donatori, in particolare nelle donatrici. Ma se vedete, sono indicati anche il basso consumo di frutta e verdura, la scarsa attività fisica, come diceva il collega prima, e rapporti sessuali non protetti e quant'altro. Noi per fare queste azioni abbiamo anche dei riferimenti di legge, nel senso che non è solo un'idea che noi abbiamo, ma questa idea è stata, diciamo così, portata avanti e anche abbiamo dei riconoscimenti sia al nostro interno dello statuto, sia in piani sanitari che si sono susseguiti e nel decreto del 3 marzo 2005, che è quello che individua le caratteristiche di idoneità del donatore. Questo piano sanitario nazionale, io non entro in merito se era bello o brutto, non mi interessa, però dava come obiettivo quello di fare degli interventi prioritari sulle malattie cronico-degenerative. E uno degli obiettivi, ad esempio, sulle malattie cardiovascolari era quello di ridurre di almeno il 10% la mortalità per infarto cardiaco e di almeno il 10% la mortalità per malattie a carico del sistema cerebrale. Il secondo piano sangue plasma nazionale, dove parlava di volontariato, individuava nel progetto salute un obiettivo in cui venivano coinvolte anche le associazioni donatori, perché il donatore è specchio della popolazione in generale, ci consente di fare una valutazione epidemiologica e ci permette di intervenire sugli stili di vita. Stili di vita che sono dei comportamenti, ma che possono essere in parte monitorati anche dagli esami che regolarmente vengono fatti o ad ogni donazione o periodicamente una volta all'anno ai donatori, che vanno a valutare lo stato di salute generale degli stessi. In più, sempre il decreto del 3 marzo 2005, l'articolo 16, e questo è stato fortemente voluto da Avis, c'è indicato che noi siamo inseriti in programmi di prevenzione e di educazione sanitaria. Gli interventi potrebbero essere numerosi, quindi non mi dilungo. Avis ha partecipato e partecipa ad alcuni progetti, il progetto Prove, il progetto Genoma, il progetto Cuore, dove c'è la rilevazione di una scheda di rischio cerebro-cardiovascolare che ha la funzione di rilevare a che fascia di rischio appartiene quella persona, per poi mettere in atto dei suggerimenti per fargli modificare eventualmente i comportamenti a rischio che li hanno esposti a un probabile e possibile danno per la propria salute. Quindi Avis si inserisce a pieno titolo in argomenti di promozione della salute. Queste sono due diapositive molto complesse, quindi le salto adesso e poi nei gruppi casomai ne parliamo, ma è per dire che le patologie che sono collegate a situazioni di tipo cronico-degenerativo, che sono più tipiche nei paesi occidentali, sono sicuramente collegate a determinati comportamenti e stili di vita. Quindi ci sono dei comportamenti che noi possiamo modificare e su questi noi dobbiamo agire per fare in modo che il donatore sia sempre più vicino a una condizione di salute ottimale. Chiaramente l'ereditarietà è un fattore non modificabile, ma gli altri spesso si può fare. Siccome la mia vicepresidente parlava dell'importanza della scuola e della formazione, io ho preso questa frase di Corradini che dice che in quanto condivisione e sintesi di valori, la salute non è solo affare del singolo né delle singole istituzioni specialistiche. Va sviluppata con un approccio integrato e sistemico che chiama in causa tutte le istituzioni di tutti i settori significativi della società e tutte le dimensioni della persona. La salute diventa insomma un asse valoriale che comporta un nuovo modo di guardare la società, di fare cultura, educazione e politica, un nuovo modo di vivere, non solo di affrontare e curare le malattie. Allora, sono state proposte 10 regole d'oro per prevenire l'insorgenza di malattie cardiovascolari, che sono queste che riporto qui, ma dopo la relazione la lascio a disposizione, quindi potete farvela mandare, quindi non ci sono problemi per avere quei dati oggettivi. Ma quello che così volevo lanciare come discorso, perché è un po' anche il filo conduttore di questi due giorni, è che alla fine noi possiamo creare delle reti che coinvolgano la popolazione, soprattutto giovanile, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale, il mondo della scuola, per promuovere degli stili di vita sani e positivi, anche ad esempio con dei vademecum dedicati ai donatori, dove si punti l'attenzione sulla corretta alimentazione, sull'abolire il fumo, su non avere comportamenti a rischio, su attività donazionali fatte in un certo modo, sull'uso moderato dell'alcol, un'adeguata attività fisica e quant'altro, che dà un valore aggiunto a quello che noi facciamo. Queste azioni hanno anche delle conseguenze immediate, che sono la riduzione del numero di donatori sospesi, ad esempio per dismetabolismi. Se una persona ha un'alimentazione adeguata, probabilmente non ha colesterolo alto, non ha gli esami del fegato alterati. Si possono cambiare alcuni stili di vita, difficilissimo, ma si può tentare. Si può ridurre il rischio trasfusionale infettivologico, aumentare la salute in generale e dare una maggior qualità alla donazione che noi effettuiamo quotidianamente. A lungo termine possiamo effettuare una prevenzione primaria e secondaria, sorvegliando l'arrivo di nuove patologie, valutando la reale diffusione di condizioni a rischio e di stati preclinici, stabilendo nel nostro territorio un range di normalità per alcuni parametri e valutare l'efficacia degli strumenti di diffusione dell'educazione alla salute. E per concludere, a me piace dire che il nostro donatore non è solo colui che si reca a donare sangue per rispondere a un bisogno di salute, ma è testimonianza di molti valori, valori che travalicano però l'atto donazionale in se stesso e forniscono un'azione prosociale, quindi la promozione della salute dà un vantaggio generale in più. E allora, se noi facciamo queste azioni, noi avremo che il donatore starà bene per sé, ma starà bene anche nella società dove opera, nel mondo del lavoro, a scuola e in famiglia. E quindi a questo punto diventa consapevole, testimone e promotore di stili di vita sani. Questo qui l'avevo messo per ricordarmi che stavo tirando la lunga e quindi mi avvio alle conclusioni vere. Allora, quello che però mi piace lasciare come messaggio conclusivo è che la consapevolezza del donatore è fondamentale, ma tutto questo passa attraverso l'opera che la nostra associazione svolge quotidianamente, sin dal momento della promozione della donazione, nel senso che noi dobbiamo far capire già da subito cosa vuol dire essere avvisini, vuol dire essere persone disponibili agli altri, ma con un'attenzione forte alla salute propria e di chi poi riceverà il nostro dono. Quindi Avis può fare un'azione in questo senso, che fidelizza maggiormente il donatore, fa nuove proposte di solidarietà, nuove proposte per la salute e quindi facilita la partecipazione sociale. Grazie. Siamo incredibilmente in orario, non ci credevamo nessuno che potevamo rispettare così i tempi. Ora c'è il coffee break, dopo il coffee break vi riunite i lavori di gruppo. La logistica, ve l'ho detto, siccome siamo tanti è un pochino complicata, però chiedo un po' di collaborazione. il gruppo dell'alimentazione, quindi Pantagruele, va in sala Farnese, il gruppo sport, che è questa, vai là, in fondo là, il gruppo sport invece va in sala Visconti, poi c'è scritto fuori dalle sale, c'è il gruppo di riferimento che è di qua. Poi il gruppo donazione va un po' splittato in due, parte in una saletta studio e parte nella saletta Scotti, però già avevano già deciso di partire separati nei due sottogruppi, quindi non c'è problemi. E il gruppo della psicologia amore psiche sta parte qui e poi parte invece nell'altra sala. Quindi buon lavoro nei gruppi e poi ovviamente. Il gruppo donazione si trova nella hall e poi dopo si divide, va bene. Quanto si pre? Lei è la più fiscale, quindi vuoi fare le chiavi delle distanze?